5. Il racconto di Elena Corner, di Elisabeth di Boemia e di Anna Maria van Schurman. Mia madre Zanetta era una donna del popolo. Mio padre uno degli illustri Corner di Venezia, famiglia antica e ricca. La mamma, non essendo nobile, fu rifiutata dai Corner come sposa del loro rampollo e dunque convisse con mio padre more uxorio per 20 anni. Donna di grande onestà, intelligenza e fierezza, educò noi figlie alla virtù e all'onore e venne pubblicamente riconosciuta da papà come moglie di fatto. Mio padre ci diede il nome della famiglia Corner e ci permise di studiare. Purtroppo ai miei tempi, per una donna che volesse dedicare la vita allo studio, non c'era altra via che il convento. Quante di noi avevano scelto la solitudine claustrale e l'uscita dal mondo per poter nutrire l'intelletto e placare la fame di sapere? Noi sapevamo bene che finire nella trappola del matrimonio significava rinnegare lo spirito e passare il resto della vita a obbedire e figliare. Il più grande dono delle donne, la capacità di procreare, era per noi pericolo e condanna. Io avrei potuto rinunciare a tutto fuorché a soddisfare il mio intelletto. Il mio corpo è cenere, oramai da tempo, ma la mia per nulla somigliante immagine è ancora immortalata sul muro dell'università, oggi aperta alle fanciulle di quella Padova dove terminai i miei giorni. Fui la prima donna nel mondo occidentale a conseguire la laurea. Incoraggiata da mio padre e dai miei insegnanti, chiesi al collegio dell'Università Patavina di poter sostenere l'esame di dottorato in teologia. Il collegio era favorevole e aveva anzi già apportato al cerimoniale le necessarie modifiche, infatti a ratificare che l'insegnamento della teologia doveva restare precluso alle donne, mi sarebbe stato consegnato il libro chiuso anziché aperto, ma il mio essere femmina risultò un ostacolo insormontabile per il vescovo di Padova, che ritenne disonorante per la Chiesa riconoscere a un essere di sesso femminile il titolo di dottore in teologia. Si dovette ripiegare dunque sulla filosofia. Sorella Ipazia, ne saresti stata così compiaciuta, poiché all'epoca in cui insegnasti tu era la filosofia che, indagando anche il mistero divino, includeva la teologia, e non viceversa. Or dunque, vennero da ogni parte d'Europa a interrogarmi, increduli che una donna potesse disquisire di ogni ramo del sapere con tanta cognizione. Il giorno in cui discussi la tesi, c'era una tal quantità di gente a vedere questo fenomeno, che essendo risultata la sede abituale insufficiente a contenere tutti, dovettero trovarne in fretta una più ampia e trasferirci all'ultimo momento nella Cappella della Vergine, nella Cattedrale di Padova. Gli argomenti assegnatimi furono, per ironia della sorte, due tesi sul misogino Aristotele, che da secoli detta legge, essendo assurto al ruolo di incarnazione stessa della filosofia. Le mie risposte convinsero gli esaminatori, che decisero di dichiararmi per acclamazione magistra et doctrix in filosofia. Ero la prima donna al mondo a potermi fregiare di tale titolo. Tradotto correttamente in lingua italica, doctrix equivarrebbe a dottrice, ovvero il femminile di doctor, dottore, così come autrix divenne autrice. Ancora non era nata la desinenza che avrebbe sminuito e irriso le donne laureate, quell'essa di dottoressa a suggerire con sottile spregio quanto sia insultante per il genere umano che una donna si azzardi a rivendicare un ruolo considerato maschile. Essa, pronome destinato ad animali e oggetti di genere femminile, nemmeno la consolazione, giusto per salvare le apparenze di un ella finale. Sia come sia, a conferma del mio status di laureata, mi furono consegnati gli stessi simboli che venivano dati agli uomini. Era il 25 giugno 1678 e io ricevevo la corona d'alloro, l'anello per rappresentare le nozze con la scienza, il manto di ermellino che indicava appunto il grado di doctrix e il libro, simbolo della conoscenza. Fin da piccola Io avevo mostrato di prediligere uno stile di vita austero e sobrio, quasi claustrale. Dopo aver rifiutato il vantaggioso, tra virgolette, matrimonio che un principe tedesco impressionato dal mio sapere offrì alla mia famiglia per riscattare l'onore dei Corner macchiato, secondo la convenzione di allora, dalle origini modeste di mia madre, risultò per me più che naturale consacrarmi allo studio, ritirata dalla mondanità che mi annoiava. Mi feci oblata benedettina e vissi in castità, ascetismo e dedizione totale allo studio. Sotto gli abiti laici, sobri seppur eleganti, che il mio rango mi imponeva, indossavo lo scapolare per ricordare a me stessa la mia scelta in ogni momento, anche attraverso il contatto del ruvido tessuto con la mia pelle. Alcuni ricordi delle mie giornate di studiosa mi sono particolarmente cari, come quando la mia balia bussava delicatamente alla porta della mia sobria stanza, tre discreti colpetti, e al mio «Entrate, balia!» silenziosamente varcava la porta e depositava sul tavolo ingombro di libri e pergamene un piccolo vassoio d'argento con un bicchierino di rosolio e uno zaletto, caldo e fragrante appena cotto. Poi usciva con un sorriso e una leggera carezza sui miei capelli. Ogni giorno mi immergevo nelle amate pagine dei miei libri come immessali. Mi erano predilette filosofia e teologia, materie in cui i miei stessi insegnanti mi trattavano più da maestra che da alunna. E poi le lingue, latino, greco antico e moderno, spagnolo, francese, ebraico, aramaico, arabo. Tanto che fui detta septilingue. E la dialettica, l'astronomia, la matematica, la geografia e la benedetta musica che trasportava la mia anima nel mondo dove matematica e astronomia divenivano vive e dove tutto coesisteva, comprensibile e compreso nella grazia dell'attimo infinito. Dopo aver mordicchiato lo zaletto, intinto nel dolce liquore di rose, uscivo a passeggiare nei giardini del palazzo di famiglia, camminando lentamente tra le piante e i vialetti ben curati, e riflettevo su quanto appena appreso elaborandolo. Oppure, se il tempo era bello, mi facevo condurre in laguna dal gondoliere di casata e una volta fuori dal perimetro della città, chiudevo gli occhi e ascoltavo le piccole onde cullarmi. Lo sciabordio dell'acqua contro il fianco della nostra gondola era per me una dolce meditazione. Al rientro la mia anima ricominciava a fremere sfogliando i libri, quando i miei occhi percorrevano le linee regolari delle antiche scritture, quando intingevo la punta della penna d'oca nel calamaio e quando il suo rumore stridente tracciava sulla pergamena le lettere che davano forma ai miei pensieri. Momenti di estasi che nemmeno la preghiera mi apriva, dimenticavo persino di mangiare e di dormire. L'organista Maddalena Cappelli fu mia maestra di musica e poi divenne per me anche un'amica e compagna di cammino spirituale. Si diceva di me che mi maceravo nell'ascetismo. La verità è che non mi occorreva altro alimento che lo studio. L'amore della conoscenza mi assorbiva, mi nutriva, mi riempiva. Naturalmente il mio corpo ben presto cedette. La causa ufficiale fu detta tubercolosi, anche per me, il male che consuma appunto chi trascura il corpo, ma tant'è, io non ero quel corpo, come te, sorella Catherine. Ad appena 36 anni me ne separai e mi liberai nelle braccia della madre, senza più peso, senza massa né densità. Vi confesso, sorelle, quello che ora osservo da questo piano di esistenza, ovvero fanciulle che vanno a scuola, per nulla consapevoli, poco degne del grande onore che viene loro concesso, mi rende triste. Penso alla battaglia che abbiamo dovuto combattere noi per guadagnare a loro il diritto a studiare, a osservare, a capire oltre il limite che ci si pone da se stesse. Osservo le fanciulle che nel tempo attuale considerano l'istruzione una cosa dovuta, scontata, quasi noiosa, e penso alle nostre sorelle che nei secoli hanno affrontato scherno, umiliazione, violenza, che sono state picchiate e uccise per ottenere il diritto a studiare e a esercitare come donne ciò che era considerato appannaggio degli uomini, la conoscenza, l'arte, la scrittura, la musica, la filosofia. Penso ai pazzi, Assiotea, Artemisia Gentileschi, Arcangela Tarabotti, Margherita Porete, Maria Sklodowska Curie e tante altre che hanno combattuto per rendere accessibile al genere femminile quell'edenico albero della conoscenza che ci vollero negare e che segnò l'inizio della persecuzione femminile. E ora che anche le giovani donne possono andare a scuola, a sbadigliare sui libri, viene loro insegnato a pensare come uomini, apprendendo la storia patriarcale e la visione androcentrica del mondo. Oh, abbiamo dunque sbagliato. Avesti ragione, sorella Virginia Woolf, a suggerire che forse è meglio per le fanciulle non studiare affatto, se lo studio le porta a incitare fratelli e mariti alla guerra. Ma una scuola per le fanciulle, questo sì va fatto, una scuola dove la visione delle donne che hanno potuto e voluto studiare, scrivere, produrre arte e lasciar traccia del loro pensiero venga trasmessa senza essere alterata e corrotta dalla propaganda del patriarcato, una scuola dove la visione femminile sia riconosciuta e riscattata. Non quindi nelle scuole degli uomini, ma in una scuola delle donne. Le fanciulle possono nutrire la loro fame di sapere, affinare il loro spirito e ricreare quelle radici malgrado i millenni di persecuzioni. E dunque ora, per onorare tutte le donne che hanno dedicato la loro vita ad apprendere e conoscere, nonostante i continui impedimenti messi in atto dal mondo patriarcale, io, Elena Lucrezia Scolastica Corner Piscopia, chiamo a me le sorelle e grandi erudite che vissero nel mio stesso secolo. Elisabeth di Boemia e Anna Maria van Schurman. Sorelle, venite, affiancatemi e insieme invitiamo la dea Minerva a benedire il nostro consesso e ad essere insieme a noi madrina della scuola delle donne. Due donne si alzarono e si avvicinarono a Elena. Erano entrambe avvolte in mantelli grigio scuro come il cielo quando arriva il temporale. Le si affiancarono e scopersero il capo. Avevano capelli argentati, visi che emanavano saggezza e sapere, modi composti e discreti. Si guardarono negli occhi intensamente le tre grandi sapienti del Seicento e un lieve sorriso di complicità si comunicò dall'una all'altra. Poi una delle due parlò. Sono Elisabeth di Boemia. Figlia di re, principessa e badessa. Fui la figlia maggiore di Federico V, elettore palatino, poi re di Boemia, e di Elisabetta Stuart, figlia di Giacomo I d'Inghilterra. Ho vissuto tenendo a modello la casta e operosa vita delle beghine medievali. Tutto ciò che volevo era studiare, apprendere ed essere utile. E come voi, Elena e Anna Maria, rifiutai il matrimonio. Fui istruita nelle lingue: greco, latino, francese, inglese, tedesco, logica, matematica, politica, filosofia e scienze. Studiai le arti e la letteratura, la pittura, la musica e la danza, tanto che i miei fratelli mi chiamavano affettuosamente la Grec. Ma se tu, Elena, mostrasti sempre una propensione alla teologia, per me fu la filosofia il vero alimento dell'anima. Ebbi un intenso scambio di lettere col filosofo Cartesio e come te, Anna Maria, gli contestai quel cogito ergo sum, penso dunque sono, che tanto influenzò il pensiero dopo di lui. Non capivo come potesse Descartes sostenere che una sostanza immateriale come la mente influisca su una sostanza materiale come il corpo. La mia fiducia nella nuova scienza emergente, vicina alla filosofia naturale, mi impediva di accettare che la capacità di pensare fosse sganciata dalle condizioni del corpo. Il mio interesse per il funzionamento del mondo fisico, per le sue malattie e le sue cure, mi portava a credere che il corpo avesse una parte importante nel processo del pensare, che potesse interagire col pensiero. In questo mi trovai perfettamente allineata con te, carissima Anna Maria. Sum ergo cogito, sono dunque penso. Era più affine alla nostra visione. È perché esisto, perché ho un corpo che posso pensare. La materia, La madre, la sostanza che da lei proviene, è la matrice di ogni pensiero e la causa efficiente di tutto ciò che esiste. A 42 anni entrai nel convento luterano di Herford, in Germania, e 7 anni dopo ne divenni badessa. Lo diressi con umiltà e semplicità, senza lasciarmi depistare dalla debolezza travestita da compassione. Espletavo i miei doveri con piacere, onestamente. Da principessa e figlia di re, amministrai molto bene le terre del convento che rifiorirono sotto la mia guida e tra le sue mura fornii rifugio alle sette religiose protestanti emarginate dall'ortodossia. Lasciai il corpo a 62 anni in pace e soddisfatta del mio passaggio terreno. Avevo utilizzato al meglio il tempo concessomi e avevo avuto un nutriente scambio di lettere con te, amata Anna Maria, a me così vicina nel pensiero e nell'azione. Elisabeth di Boemia fece un piccolo passo indietro e con la mano gentilmente offrì alla sua compagna l'attenzione del cerchio in attento ascolto. La seconda donna in grigio ringraziò con un cenno del capo e un sorriso e offrì il suo racconto alle donne sedute intorno al fuoco. Io, Anna Maria, Van Schurman, avevo 11 anni più di te, Elisabeth. Fui una delle donne più colte del Seicento. Mi chiamavano la Minerva olandese. A 4 anni sapevo leggere, a 13 parlavo correntemente latino e greco, e col tempo arrivai a parlare tedesco, olandese, inglese, francese, italiano e castigliano, ebraico, aramaico, arabo, siriaco ed etiope, e scrissi anche una grammatica della lingua etiope. Dominavo l'algebra, la geometria, l'astronomia, mi appassionai alla pittura, alla musica, alla letteratura e fin anche alla scultura. Tutto ciò che stimolava la mia mente e i miei occhi era per me importante e sacro. Prima di tutto il resto, però, consideravo me stessa una teologa come te, sorella Elena. Solo nella teologia trovavo l'insieme perfetto e completo di tutto l'esistente, poiché comprendendo l'energia divina che ci è madre e che a quel tempo ancora chiamavo Dio, si risveglia completamente la nostra coscienza e ricordiamo chi siamo e qual è il nostro cammino. Questo era per me lo studio della teologia. Mentre Anna Maria parlava, Elena assentiva col capo. Aveva gli occhi chiusi e un leggero sorriso le sfiorava le labbra, quasi come si trovasse in uno stato di beatitudine al suono di quelle parole così calzanti nel descrivere anche la sua visione. Quando avevo 29 anni, riprese Anna Maria, fu fondata la prima università nella mia Utrecht. Il rettore, cui era giunta all'orecchio la mia fama di studiosa, facendo un'eccezione alla regola che vietava alle donne l'accesso alle aule universitarie, mi permise di seguire le lezioni di letteratura, diritto, scienze e teologia, stando nascosta in una nicchia invisibile dietro una tenda. Anche io ebbi uno scambio di lettere con Cartesio e, come ben sai, sorella Elisabeth, anche io trasformai il suo teorema fondamentale nel suo opposto, sum ergo cogito. Ovvero posso pensare perché sono fatta in un certo modo ed è perché sono fatta in questo determinato modo e non in un altro che posso pensare ciò che penso. Ricordi, sorella, quanto ci scrivemmo per giungere insieme alla conclusione che il corpo è fondamentale nel processo del pensiero? Più o meno quando tu entrasti in convento, Elisabeth, io lasciai Utrecht e andai a vivere con Jean de Labadie e i suoi seguaci. Ero affascinata dal loro sogno di ricreare la vita comune dei primi cristiani a Gerusalemme e rimasi con loro, sebbene per me fosse molto difficile rinunciare agli autori classici per dedicarmi solo allo studio delle scritture, secondo quanto avevano deciso. Significava abbandonare le cause che fino ad allora avevo sostenuto. Nondimeno restai nel nucleo dirigente dei labadisti, anche dopo la morte di Jean, fino a che io stessa lasciai il corpo a 71 anni. Anche io, come voi, sorelle, senza rimpianti né attaccamenti, soddisfatta di un passaggio terreno totalmente dedicato allo studio e al servizio, nutrendo la mia anima e il mio intelletto con quanto di meglio la creazione mi mise a disposizione. Forse la pacifica e operosa energia dei béguinages, le case delle beghine, che quando noi nascemmo stavano riprendendo vita, risvegliavano in me le memorie delle grandi antenate beghine di Marguerite Porete, di Mechthild von Magdeburg e della loro grandezza. Nel dire questo, Anna Maria allungò il braccio verso est e subito si creò un movimento nel cerchio, come una vibrazione che anticipava chi avrebbe preso la parola. Un gruppetto di donne con abito scuro e cappuccio bianco lungo fino al petto si alzò, manifestandosi, e si inchinò alle quattro direzioni. Poi tornarono a sedersi, tranne una che, rimanendo in piedi, si presentò.